farei, anche perché il cuore mi duole ancora pensare. Chiedo. Thank you. Se ha e strippa tutta musica nel cuore.